Perché siamo venuti a fare la guerra. Benvenuti alla 80, all'86esima 86esima puntata di fuoco alle polveri. E 86 come cosa? 86 come quell'anno in cui il 26 di settembre è uscito il primo numero di Dylan Dog, L'alba dei morti viventi. L'alba dei morti viventi, che tutti noi abbiamo letto e consumato Al cesso, sì, sì. In camera, in cucina, dappertutto. Mitico, Dylan Dog è un po' entrato nelle nostre vite. Almeno un po' nella mia, sì. Anche nella assolutamente, tua. Però sì, va detto che anche lui ha ceduto alle nuove Sì, è vero, perché da qualche tempo a questa parte il commissario Bloch è finalmente andato in pensione. Per la gioia di tutta la stazione lì di, come si chiama? Scotland Yard, e ha deciso Dylan Dog di prendere uno smartphone. Esatto, quindi Dylan Dog si adegua ai tempi, Bracco no. No, esatto, io ancora resisto, fra l'altro. Però l'ho detto, se prendo uno smartphone mi converto a tutti i social che ci sono. Allora, insomma, dedichiamo questa 86esima puntata a Dylan Dog e a Tiziano Sclavi, che ci ha regalato dei bellissimi fumetti. Di cosa parliamo oggi? Invece andiamo. Di che parliamo? Abbiamo il compagno Omlo che ci aggiorna sulla questione curda. Hola, Omlo. Perché gli aggiornamenti sono tanti, le novità sono tantissime. Poi parleremo invece con il compagno Olmo, con il quale andremo a leggere nei dettagli il programma di Reset, l'incontro della rete Set Sud Europa di fronte alla turistificazione, che si svolgerà a Firenze nel prossimo fine settimana, tra venerdì e domenica, in diversi spazi. Una tre giorni, esatto. Si parla di turistificazione, ma con Olmo andremo a analizzare meglio. Infine abbiamo un'intervista a una compagna di USB riguardo a una vertenza che è stata aperta contro Vodafone da alcuni dei lavoratori. E infine avremo la nuova rubrica sul cinema, che non avete sentito perché ci sono stati tantissimi inconvenienti. Sono già due settimane che ci proviamo, forse vediamo se stasera ci riusciamo. Rimanete connessi per scoprirlo, direi. Vero, scriveteci postawombat@nancyperry.net. La sto aprendo, promesso, ve lo giuro. E niente, andiamo con un primo pezzaccio e poi andiamo con gli aggiornamenti. Dai, cosa ci regali? Method Man and Sweet Life Squad Up. Un pezzo di Method Man. What do you want? I'm gonna kill you, you bastard. Here's the Chuck Chuck. All you see is crook crooks. Shout out to Havoc, good looking on the beat. Forever P. Street life was good. About to go in, son. Look, red bones and red bottoms. Like Red Bull, we gon' give 'em wings, we red dot 'em. Candy wrappers, cinnamon, we red hot 'em, headshot 'em. Go against my grain, get head problems. Big dummy garbage rappers, we red fox them. Shoot an actor in high depth and red box them. Tip the scales in my favor, stay in your top 10. If life's like a triple beam, I'm weighing my options. Y'all like YMF, you high meth. Keep a big papa, cause I ain't ready to die yet. I digress, or I'm just too intense to digest. Stretched in a Pyrex, compliments to my chef. Game ain't been the same since I left. Is they really crooks or just a pain in my neck? Wu-Tang, ain't no lanes in my set. Fresh pair of Nike Airs, I just do it for my check. I'll be the first to tell these rappers, get your paws up. Shout to P, you know what's havoc when we mob up. I tell that smut, they over, pull your drawers up. Cigar guts, all up in the club, putting squad up. Throw your squad up. Throw your squad up. Throw your squad up. Cigar guts, all up in the club, putting squad up. I swoop in, shooting like I'm paratrooping. We all in, we riding, we carpooling. My whole crew, we diving, we platooning. Salute me, you shoot me, Huey P. Newton. Your buffoonery is quite amusing. This is not monkey business, stop cooning. It's a method to my madness, I know what I'm doing. There's a reason why I'm winning and you said he's losing. I'm about to blow like I'm ballooning. Then show my whole ass when I'm black mooning. Got your girl in the green room teaspooning. Hit my man with the give and go, alley-ooping. Spit Jeff Jazz when I'm crush grooving. I'm a pillar with success and just keep it moving. I'm heavy hitting and you barely bruising. Come through Mob Deep like a movie union. I'll be the first to tell these rappers get your paws up. Shout to P, you know it's havoc when we mob up. I tell that smut, date over, pull your jaws up. Cigar guts, all up in the club, putting squad up. Throw your squad up. Throw your squad up. Throw your squad up. Cigar guts, all up in the club, putting squad up. Black Timbs and black masks. By suitor, niggas know they rap trash. My shooters get all up in that ass. I maneuver, finish shit, no half-ass. Little niggas, we birth job for real though. Protect your neck, you stomped out with steel toes. My real bros, respect the code is real, yo. Y'all new niggas looking like some weirdos. But y'all niggas is co-signing, shook the whole iron. These little hoes be lying, that bullshit blow by it. On point, so don't try it. Wild like doing riots, on Rikers out, you hiding. From the realness is real, kid. Having meth in the building. Forever P to infinity. Whoever don't like it, cut that nigga, let the fucker bleed. I'll be the first to tell these rappers, get your paws up. Shout to P, you know it's havoc when we mob up. I tell that smut, date over, pull your jaws up. Cigar guts, all up in the club, putting squad up. Throw your squad up. Throw your squad up. Throw your squad up. Cigar guts all up in the club, putting squad up. Che non può desistere dal vilipendere la corte, ordino allo sceriffo di legarla e imbavagliarla. Eh sì. Oh no. Eh sì, è proprio così. Oh oh oh. Mi sono scordato di dire anche una cosa. Abbiamo anche un po' di novità sull'attualità fiorentina. Sì, con la politica. Ci stiamo avvicinando alle grandissime elezioni di maggio. Feel the pressure. È vero, è vero. Iniziamo a sentire lo scalpitio di tutti i cavalli che stanno correndo verso quella data. E ve ne parleremo fra poco. Prima, compagno Omlo, di ritorno dalla Siria. No. Ciao a tutti. Ciao. Sicuramente il più informato in assoluto. Esatto. Non sei stato in Siria, ma sei sicuramente molto più informato di noi. Dunque, allora, grandi novità, vero? Sì, oggi è una giornata importante proprio perché appunto dalle notizie che ci arrivano da laggiù, dalla Confederazione della Siria dell'Est, e perché sì, ieri erano settimane, negli ultimi giorni insomma, che continuavano i combattimenti nell'ultima roccaforte di Daesh. Al limite sud sulle sponde dell'Eufrate, al limite sud appunto con il confine con l'Iraq, dove si erano barricati, ed è più o meno di queste ore, di questa notte insomma la notizia diciamo ufficiale della fine dell'esistenza di dello Stato Islamico in quanto tale, in quanto entità con un dominio territoriale. Il califfato, dunque. Esatto, quindi finisce dopo ormai 5 anni, perché dal 2014 il regno di terrore dei salafisti dell'ISIS. E è stata anche questa insomma una battaglia molto dura, è iniziata, ne abbiamo parlato settimane fa, con la presa di Ajin per scendere appunto fino a sud. È stata una battaglia molto dura perché fino all'ultimo i jihadisti hanno usato come scudi civili per rallentare in ogni modo insomma l'avanzata dei confederalisti. Nelle ultime settimane sono stati liberati circa 20.000 persone che erano trattenute appunto in varie forme, tutti insomma, con vari stati sia di salute, sia di tutto quello che si può immaginare, insomma, quando si è finiti per 5 anni nelle mani dell'ISIS e si è stato, cioè, fino all'ultimo, appunto, fino a questi giorni, per fare capire l'entità della cosa, si erano barricati in dei tunnel che erano scavati appunto in un quartiere vicino all'Eufrate, cioè in un villaggetto, diciamo, e avevano infilato tutti i civili nei tunnel in modo che nessuno potesse bombardare senza ammazzarli tutti. Quindi è stato un lavoro molto, anche insomma, una battaglia molto difficile, molto, che ha richiesto anche tanti sacrifici, tanto sangue da parte dei compagni che sono, insomma, hanno dovuto rischiare fino all'ultimo per agire in maniera puntuale, riuscire a entrare, liberare. Sono stati liberati varie persone anche europee che erano prigioniere da tempo. C'è stata anche, insomma, la gioia un po' anche delle YPG, che sono riusciti a liberare le ultime donne yeside che erano state catturate a Shengal. Senti, una domanda. Questa cosa dei prigionieri, no, che si leggeva ultimamente, era però legato più che altro ai prigionieri dell'ISIS europei? Sì, perché appunto questa è la fase, appunto, il lato bello, bello. Certo. Anche se appunto per la Confederazione non si può mai tirare un sospiro di sollievo, visto il contesto in cui si trova. Esatto. Però sicuramente, insomma, finisce almeno uno dei problemi, ecco. Chiaramente non finisce il problema dell'ISIS, perché, come abbiamo visto, magari non sarà Stato Islamico, eccetera eccetera, ma certo, sarà comunque, esistono le cellule come abbiamo visto in Europa, che senza avere un territorio sotto il loro controllo possono comunque agire in maniera molto pesante. Immaginiamoci lì, dove comunque hanno molto più conoscenza, eccetera, del territorio, hanno avuto anche tempo per programmarla questa fase, quindi certo, hanno già iniziato a nascondersi e tentare di nascondersi fra i civili, a portare attacchi nelle città, nei campi rifugiati. Però tra, diciamo, l'altro, che comunque le forze confederaliste si erano nel frattempo anche preparate a questa fase, quindi hanno messo su delle forze, diciamo, di intervento adatte a quello, col fatto che la difesa comunque è distribuita in mano anche alle comuni e quindi a chi è sul territorio, c'è anche una capacità di autodifesa maggiore rispetto a quella che possiamo immaginare qua, anche dovuta al contesto. Però sì, c'è il grosso problema attuale, diciamo che le due problematiche centrali che si pongono in questo momento, diciamo, in un certo senso positivo, però si pongono appunto due problematiche centrali. La prima, appunto, e la più immediata, è quella dei prigionieri, appunto, di Daesh, cioè negli ultimi giorni, soprattutto nell'ultima settimana, c'è stata comunque la resa di centinaia di combattenti dello Stato Islamico, e quindi adesso le forze confederaliste si trovano in mano più di 2000 combattenti dell'ISIS, la maggior parte stranieri, molti europei, molti francesi. Con famiglie, fra l'altro. Che nel frattempo, esatto, hanno messo su famiglia e quindi che richiedono la tutela, appunto, esatto, delle famiglie. Spieghiamo un attimo come si sono formate queste famiglie, perché io, da quello che ho letto sui media, ho potuto vedere che spesso le mogli di questi jihadisti sono... sì, a volte sono anche persone che arrivano dall'Europa, ma spesso sono persone che sono state rapite, donne che sono state rapite, che sono state quasi rese in una situazione di schiavitù, ecco. Sì, certo, su quello c'è una... cioè, dipende anche quanto grado di... diciamo, cosa psicologica, di lavoro psicologico è stato fatto, nel senso che molte donne che vengono liberate ovviamente non richiedono e non vogliono seguire i loro aguzzini, però ci sono altre situazioni in cui è così, o addirittura, per esempio, come è capitato con la combattente dell'ISIS, sì, sì, di inglese, che nel frattempo ha avuto un figlio, eccetera, esatto. Quindi c'è il problema di questi rimpatri. sui quali l'Europa non sta nuovamente agendo in maniera compatta né responsabile sotto nessun punto di vista, perché abbiamo anche dei comandanti dell'ISIS francesi, cioè non sono ruoli secondari. E quindi in questa violenza, in questa storia che è piombata sulla Siria e sull'Iraq, cioè molta parte di quello che è stato, cioè molta parte di ciò è stata creata in Europa. Ora non parliamo della parte diretta da parte dei governi, però certo. Certamente chi è andato là è il frutto di un malessere, di un qualcosa che riguarda la società europea. Da dove arriva la radicalizzazione, dici? Deriva proprio dalle politiche. Persone che sono partite dal Belgio, dalla Francia, dall'Inghilterra e sono cresciute lì e sono andate là a combattere. Quindi qui c'è una popolazione che è quella appunto della Siria del Nord-Est, che lotta da anni all'interno di una guerra sanguinosissima, lotta da anni sacrificando la vita e ciò che ha per cacciare appunto il califfato. E oggi si trova con un paese distrutto, con le famiglie distrutte, con tutto quello che si può immaginare dopo quello che è successo fino ad oggi, e con gli stati da cui questi nemici provengono che rifiutano di riprendersi indietro, processare e gestirsi loro questo problema. Perché è chiaro che è un problema, cioè un ISIS, un combattente ISIS non è una persona che metti in carcere e te ne stai tranquillo. Quelli, cioè, nel senso, appena sono stati messi in qualche carcere hanno radicalizzato tutto il carcere, no? Cioè, quindi certo. Gli stati non sanno dove metterli, però tantomeno sanno dove metterli i poveri confederalisti, che adesso ce ne hanno 2000, sì. E 2000 non è che li metti, cioè non si sa dove metterli, crei un problema a livello umanitario anche rispetto anche dei loro diritti, perché comunque devi sfamarli, devi. Certo. E poi ti crei un pericolo, perché ovviamente qualsiasi cellula dell'ISIS che ci sia, quello che farà sarà cercare di andarli a liberare. E in una situazione come la loro, appunto, è proprio fare ricadere su di loro quell'ulteriore costo di questa guerra che non è né loro responsabilità né. Gli Stati Uniti che ne pensano al riguardo? Gli Stati Uniti a riguardo hanno chiesto in realtà abbastanza rapidamente all'Europa di riprendersi i propri cittadini. E quello che hanno fatto, per esempio, è rispetto alle famiglie non rispettare nulla di tutto ciò, cioè appunto combattenti che avevano mogli, bambini e così, hanno detto no, noi riprendiamo e processiamo il cittadino americano nato, cioè nel senso che è andato là, e quegli altri buona. Però sì, su questo la Germania ha dichiarato subito che comunque chi era cittadino tedesco aveva diritto di tornare a casa e essere processato secondo appunto le leggi tedesche. Ci sono vari dibattiti, però appunto c'è ancora una volta un segnale di non, cioè di interessi particolari all'interno di quelle che sono le politiche generali dell'Unione Europea. Ma e riguardo più al trattamento che, cioè, perché ad esempio in Italia ci sono problemi anche con chi è tornato dalla Siria, però chi combatteva contro l'ISIS, ma all'incirca sono lo stesso genere di problemi? Dipende da qual è. No, non per noi, non per noi, è chiaro, però nel senso le istituzioni, la legge li vede nello stesso modo, un combattente che è andato in Siria a combattere con l'ISIS o con Daesh, scusate, o un combattente che è andato in Siria a combattere contro Daesh, sono equiparati? Cioè dipende, i vari stati hanno fatto norme diverse, però tendenzialmente nel momento in cui sono state fatte delle leggi contro i foreign fighters, soprattutto se non sbaglio in Francia, non era stata fatta distinzione. È anche vero che poi ovviamente i crimini di cui si può essere accusati iniziano a essere abbastanza diversi nel momento in cui, cioè, la preoccupazione verso i combattenti internazionalisti che hanno lottato contro l'ISIS da parte degli stati c'è, per le posizioni politiche appunto diverse rispetto a quello che possono essere, come può essere la repressione verso, diciamo, tutti quelli che sono il movimento politico anche che abbiamo qua. È chiaro che insomma la situazione è parecchio, sì, certo, è parecchio più complicata e parecchio diversa, soprattutto quando i numeri, in questi, soprattutto nel caso inglese e francese, iniziano a essere consistenti. Si parla di decine e decine di persone. Anche perché, sì, scusate, centinaia, se vi interrompo, la genesi di queste leggi, che poi si collegano chiaramente al clima di repressione che dici tu, ma la genesi di queste leggi era per impedire soprattutto i mercenari, che soprattutto negli ultimi 30 anni sono andati in Africa, per esempio, a combattere nelle varie milizie, quindi nasceva per bloccare questo, quindi non ci si poneva mai, cioè non si parla di chi è andato in Spagna a fare la rivoluzione spagnola, a lottare con col fronte democratico. Era, sì, qualcosa del passato. Sono state fatte alcune leggi specifiche nel periodo dopo il 2014, nel momento in cui l'ISIS prendeva campo e c'era un grosso flusso di persone che arrivava appunto dall'Europa. Sono state fatte nei paesi dove questa cosa era maggiore, sono state fatte alcune leggi ad hoc, però non tutte appunto specificano e differenziano. Ah, esatto, è quello il punto. È chiaro che insomma è anche una questione di opinione pubblica, eccetera. È chiaro che mentre di queste tematiche non si parla, perché appunto di ISIS si è fatta una testa tanta a tutti quanti, anche quando, cioè nel senso, si chiaramente l'ISIS ammetteva vittime in Siria e in Iraq come niente, poi insomma si è parlato dell'ISIS quando in Europa è successa una cosa grave, ma che nel senso in proporzione a quello che è il fenomeno, esatto, è abbastanza. Di quale cosa stiamo parlando? Cioè, nello specifico? No, parlo degli attentati compiuti dall'ISIS in Europa. Chiaramente adesso che l'ISIS viene sconfitta, zero notizie. Perché? Perché semplicemente discutere del fenomeno vuol dire porlo davanti all'opinione pubblica. E quindi, sì, queste cose devono poi venire affrontate in una maniera diversa. Mentre quello che si sta cercando di fare è di gestirla in maniera totalmente diplomatica, senza farne scaturire, diciamo, un dibattito troppo accese, quindi evitare, diciamo, questa, per cui insomma una notizia come questa, no, la sconfitta dell'ISIS, non, cioè, che passi inosservata è abbastanza rappresentativo di quelle che sono, certo, le politiche che ci sono dietro, sì, sì. E direi che appunto l'altro elemento centrale è proprio appunto riguardo all'Unione Europea la richiesta del TFDEM, no, dei confederalisti, di avere da parte dell'Unione Europea delle forze di pace che vadano a pattugliare i confini e quindi a evitare uno scontro con quelle che sono le forze, diciamo, circostanti. Ecco, questo dovrebbe succedere, correggimi se sbaglio, perché i contingenti che attualmente sono in Siria, anche nei pressi della Turchia, si stanno ritirando, come può essere il caso degli Stati Uniti, ma anche contingenti francesi, inglesi. Sì, ancora le posizioni non si sono chiarite. Comunque sia, la richiesta dei confederalisti è sempre stata quella di avere forze internazionali, nel senso che quello che per garantire e per poter, diciamo, mostrare la democraticità anche del processo che stanno portando avanti e non diciamo creare delle alleanze che poi siano in conflitto, aumentino quello che può essere per esempio la difficoltà di un percorso di trattative con quello che è il governo centrale, che è dall'altra parte dell'Eufrate, diciamo il vincitore di questa guerra. Quindi avere chiaramente appunto avere delle forze di uno Stato nello specifico diventa più problematico, e quello che da loro viene chiesta è da sempre, no, una tutela internazionale. E lo Stato siriano invece? Ho visto che mi riferivo, il, ecco, percorso di, cioè, siccome il confederalismo non richiede l'abolizione dello Stato siriano, ne accetta l'integrità territoriale, ma quello che va a chiedere quello che pretende, diciamo, in una trattativa è una grande autonomia a livello locale, quindi il funzionamento del modello politico del confederalismo democratico, dove la presenza dello Stato centrale, diciamo, deve essere mediata e può occuparsi principalmente della appunto tutela dei confini, eccetera. Però mentre questo processo è in corso, la presenza, cioè le forze che sono presenti in campo sono cioè sono determinanti in quello che può essere un processo di questo tipo. Quello che è stato, cioè, da parecchio tempo, cioè già Öcalan nel percorso, diciamo, di pace anche con la Turchia, ma ancora insomma nel tempo fino ad oggi, i confederalisti hanno sempre fatto riferimento comunque all'Unione Europea in un certo senso come una delle entità politiche più affini, nel senso di comunque avere una base sul rispetto dei diritti dell'uomo e comunque essere fondata su un modello più decentrato rispetto ad altre realtà. Questa cosa è stata reiterata ultimamente ed è stato appunto chiesto all'Europa di intervenire a riguardo, e l'Europa continua a rispondere con un sonoro silenzio. Non risponde. Che di fatto insomma, dimostra e continua solo ad accrescere quello che è il suo fallimento, perché insomma, se questo è nel momento in cui la politica internazionale, soprattutto di Trump, eccetera, spinge per no, fare la voce grossa, e va bene appunto il soft power dell'Europa e tutte quelle che possono essere le tattiche, ma nel momento in cui l'Europa può essere decisiva, l'unica cosa che riesce a fare sono battibecchi sugli interessi dei singoli governi e dei singoli stati. Quindi insomma, questa è una cosa urgente, è una cosa che comunque riguarda anche tutti quelli che in Europa ci abitano come noi, e quindi credo che sarà anche, insomma, potrebbe essere nel prossimo futuro questi due, diciamo, punti, no? Quello dei prigionieri e quello delle forze, diciamo, di pace a pattugliare i confini, comunque due istanze centrali per quanto riguarda anche il difendere la rivoluzione in Rojava, anche imparando da quello che è stato un po' il loro cammino, no? E quindi insomma quello di comunque avere un dialogo con quelle che sono le potenze che ci si trova sul territorio, e da questo, diciamo, e far emergere le contraddizioni per arrivare comunque a quello che sono una distinzione tra obiettivi tattici e strategici, no? Nel senso, non è che uno deve dire ah, viva l'Unione Europea è bellissima e nessuno la tocchi, però un'altra cosa è non usare quello che attualmente esiste per cercare di proteggere quello che è stato creato. Ma la Turchia in tutto questo? Esatto. La Turchia è proprio principalmente quello quello contro cui insomma devono essere schierate delle forze di pace, perché se andiamo a vedere, esatto, in realtà, insomma, da quanto detto ad oggi, la Russia non sembra particolarmente interessata a supportare uno scontro diretto per quello che già ci avevi raccontato, che era un po' un lago della bilancia da un certo punto di vista. Sì, la Russia comunque è dal 2015 in Siria, è riuscita a mantenere in piedi il governo Assad, è riuscita in tante cose. A far vincere anche la guerra al governo Assad, in un certo senso. Sì, e si è riguadagnato comunque una posizione internazionale su vari aspetti. Sì. Attraverso l'uso, soprattutto, insomma, della potenza militare di eredità sovietica, poi, perché insomma non è una tecnologia, diciamo, non è in certe volte, insomma, viene fatto questo paragone, ma non è che si abbia dei mezzi, diciamo, confrontabili a quelli degli Stati Uniti, però ha comunque un peso che davanti a uno scontro fra ribelli e filogovernativi comunque è stato determinante, soprattutto per quanto, certo, riguarda le forze aeree. Comunque sta aumentando l'influenza della Russia su tutta quella zona, certo, su quella parte del mondo, sì, cioè un'opera l'opera, diciamo, di Fino di andare a sostenere tutti quelli sono, quelli che vengono abbandonati dalla, no, la comunità internazionale in blocco cerca di fare terra bruciata e distruggere appunto certi governi, e la Russia si pone come l'unica alternativa e quindi sta guadagnando terreno in realtà, ma grazie. Sì, in Siria, anche in Turchia si può dire, perché la collaborazione tra i due paesi sta aumentando via via, nonostante la Turchia sia nella NATO, stati, e via discorrendo. Sono stati appunto incontri anche ultimamente, è una situazione molto complessa, perché appunto la Turchia anche lì gioca, no, a tenere un po' i piedi in due scarpe, continua con questa politica sempre nel tentativo di oramai non più rovesciare Assad ed espandere la propria influenza in tutta la Siria, come magari aveva ipotizzato in un primo momento, ma solamente nella Siria del nord, sicuramente con l'idea di creare questo fantomatico corridoio, no? Quello che loro chiedono è una zona sotto il loro controllo militare, una fascia di 20-30 km dal confine del nord siriano, che di fatto comprende la maggior parte delle aree abitate dai curdi, e di cui loro non chiedono, cioè loro ne parlano in un'ottica di difesa della sicurezza nazionale, però è abbastanza evidente che, certo, non primo regge dal fatto che non è mai stato portato cioè non c'è mai stata un'aggressione militare da parte delle YPG al confine turco, certo, nonostante le ripetute aggressioni turche. Direi quindi già la loro argomentazione è che comunque sono la stessa cosa del PKK, però appunto per loro non è sufficiente che ci sia una forza che pattuglia i confini, ma devono essere loro che vanno oltre il confine a stabilire questa, quindi si parla di fatto di occupazione, e l'occupazione la stiamo vedendo ad Afrin, la stiamo vedendo in altre zone dove comunque ci sono una situazione umanitaria terribile, sono scappate 250.000 persone da lì, e il progetto turco più o meno è basicamente quello di operare una sostituzione etnica usando i rifugiati che l'Europa tra l'altro insomma gli sborsa miliardi per di non euro farli uscire, per tenersi, esatto, e portarli in quelle zone in modo da creare territori che non hanno più quella maggioranza curda che diciamo è considerato il problema dalla esatto, Turchia. In parte l'ha già fatto, in parte lo vedremo. Ci sono appuntamenti prima di che c'è stata una grande manifestazione 10 giorni fa a Roma, ci saranno altri appuntamenti da... Guarda, adesso in realtà appunto c'è stata la manifestazione nazionale il 16 ed era appunto più concentrata sulla questione dei prigionieri politici in Turchia. I prossimi appuntamenti, diciamo, fissati sono appunto comunque sicuramente una certa attenzione con anche la delegazione che andrà appunto in Bakur per le elezioni che si terranno a fine marzo. Ci saranno le elezioni amministrative in Turchia, e questo è un altro passaggio in cui ovviamente vengono continuamente violati quei pochi diritti che diciamo rimangono ufficialmente, cioè che ancora esistono in Turchia, e l'HDP si presenta come praticamente unico partito di opposizione e cerca appunto di partecipare a queste amministrative, perché comunque è dalle amministrative, cioè dalle amministrazioni locali che l'idea confederalista, certo, inizia a strutturarsi, sì, quindi sì. Nonostante siano stati arrestati tutti i cosindaci, sia stato comunque portato un continuo attacco, la popolazione curda e l'HDP non si arrendono. E infatti Erdogan è anche un po' il cagotto, quanto ho potuto leggere. Erdogan sì, sempre di più, e diventa anche però sempre più pericoloso, perché comunque in questi anni abbiamo visto, no, dal 2015 quando la tornata elettorale non gli tornò favorevole, scatenò appunto la guerra ai curdi, si sta diciamo andando a blindare sempre di più, però vediamo appunto un'economia al collasso, delle relazioni diplomatiche che si stanno, cioè fino adesso sono stati in piedi ma sono molto fragili, sì, e sì, quindi sì. In realtà il rischio, cioè se non ci fosse quella cioè se la Turchia non fosse geopoliticamente, anche a livello proprio di strategia militare, la base della NATO per una proiezione sul Medio Oriente, in particolare sull'Iran, Verrebbe da pensare che la Turchia stia andando verso la situazione siriana. Verissimo. Allora, prima di passare ad altri argomenti, una cosa la volevo dire io, una cosa la direi te. Hai citato le elezioni nel Bakur, hai citato una delegazione, avremo probabilmente una corrispondente in quella delegazione, quindi potremo, in futuro vi saranno aggiornamenti. Prego. No, vabbè, magari da Firenze direi che, insomma, in questa giornata, al di là di tutti quelli che sono le difficoltà e i problemi di questi territori, in una giornata, diciamo, in un certo senso quasi felice, se si può dire, insomma, è una liberazione, rispetto, insomma, al passato. E io manderei, insomma, da Firenze, da tutti i compagni, un grande saluto e un grande abbraccio sia a tutti i compagni là e soprattutto, insomma, a Orso, che sappiamo che sta bene, che è tornato in base, e insomma, quindi, diciamo, il nostro compagno fiorentino, che è stato là fino all'ultimo, ha combattuto fino all'ultimo e a liberare, per liberare, insomma, dalle grinfie di questi fascisti, possiamo dirlo, con un termine nostro che magari non è adeguato, ma insomma è quello che serve a noi per capire cosa siano questi esseri. Totale solidarietà. Buono, regista Pezzaccio. Un classico siriano. Al tema. Curdo. BG. Put it there, boy, we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do. Gonna tell you fascists, you may be surprised. People in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists, bound to lose. Woo! All you fascists bound to lose. I said, all you fascists bound to lose. Yes, all you fascists bound to lose. You're bound to lose, you fascists bound to lose. Marching across the fields where a million fascists died. You're bound to lose, you fascists bound to lose. Woo! All of you fascists bound to lose. Yes, all of you fascists bound to lose. Yes. All of you fascists bound to lose. You're bound to lose, you fascists bound to lose. I said, all of you fascists bound to lose. Diavolo sei tu? Mi chiamo Ash. Reparto ferramenta. Eccoci. Bellissima, bellissima. Io me ne faccio un'altra di citazione. Vai. Che dice così: la cosa più bella di Tokyo è McDonald's. La cosa più bella di Stoccolma è McDonald's. La cosa più bella di Firenze è McDonald's. Pechino e Mosca ancora non hanno niente di bello. Questo era Andy Warhol nel 1975 e ci introduce a ciò che succederà questo fine settimana. Abbiamo qua un compagno, Olmo, questa volta, quello di prima era Olmo, la voce è simile ma non sono naturalmente la stessa persona. Si parla di turistificazione, giusto? Giusto, giusto, questo fenomeno che vediamo, diciamo, tocchiamo con mano, diciamo, quotidianamente, e che, diciamo, per chi non avesse chiara la definizione, è il fenomeno per cui una città si adatta a quelli che sono i bisogni, le richieste del turista. Quindi turistificazione non vuol dire presenza di turisti, ma vuol dire appunto una città che prende la forma di quella che è la richiesta del turista, e quindi che si fa di fatto prodotto, si fa merce di consumo per il consumo turistico. Non tutti la pensano così, di fatto è nata una rete, si chiama Rete 7, ne abbiamo già parlato, Sud Europa contro la turistificazione. È nato da un paio di mesi, circa 2-3 mesi, a Firenze, il nodo fiorentino, che organizza l'incontro nazionale questo fine settimana. Saranno 3 giorni, venerdì, sabato e domenica. A partire da venerdì, chiaramente questo incontro si intreccia con quelle che sono le dinamiche del territorio e cerca di unire questa visione, diciamo, globale e locale. Quindi il primo venerdì, la mattina, la cosa inizia al presidio in via Cavour, in difesa di Mondeggi, visto che... Alle ore 9.30 in via Cavour 1, se non mi sbaglio. Esatto, sotto la città metropolitana, che sarà quella che terrà l'asta, dove verrà messa in vendita, insomma, la tenuta di Mondeggi con tanto di villa regalata, perché non regalata, è stata praticamente... Sì, sono stati aggiunti 260.000 euro per una villa UNESCO grande, più di un campo da calcio, quindi insomma. Sì. E quindi così inizia la 3 giorni, che poi dopo riprende nel pomeriggio. Ci sarà invece l'accoglienza, diciamo, di chi arriva da fuori e anche di chi vuole partecipare da parte della città, che sarà appunto, partirà dal punto di incontro di Piazza Santa Maria Novella, la biglietteria, per portare in un tour guidato con Firenze No Cost attraverso il centro, ma non propriamente il cuore della turistificazione, ma quelli che sono i suoi bordi, quelli che sono gli edifici che sono messi in vendita, i quartieri che ancora hanno un'autenticità e che vengono lentamente erosi, e cercare di capire appunto quello che è sia l'animo di Firenze sia quello che gli si sta togliendo. Tutto questo a cura di Firenze No Cost, la prima guida antituristica. Ti correggo, non in Piazza Santa Maria Novella, ma alla biglietteria della stazione di Santa Maria Novella. Alle ore 16, naturalmente, vi saranno... Firenze No Cost ha preparato delle mappe, delle cartine disegnate da Marcio, nelle quali appunto è indicato il percorso. Naturalmente ci saranno anche loro e faranno una vera e propria visita guidata antiturismo, antituristificazione, per arrivare all'incirca verso le 5:30 in Piazza dei Ciompi. 5:30-6 dovremmo arrivare nella nuova Piazza Ciompi Nardelliana. Bellissima, no? Tra l'altro. La nostra gabbiettina, che tra l'altro ha già dato il nuovo show dei suoi risultati. Grandi potenziali come ring e come... insomma, già le qualità progettuali si sono già esposte. Infatti la Lega ieri era lì, a sciacallare sul sangue. Loro sono sempre quelli col naso, manco gli squali sentono sangue così sì, lontano. Sì, no, loro sono quindi ci saremo lì ci sarà un'opera, una piccola breve presentazione anche teatrale con Underwear Theater. E da Piazza Ciompi ci si muoverà verso la facoltà di architettura in Piazza Ghiberti, dove ci sarà un aperitivo anche con musica, con gli ingredienti e i prodotti di Genuino Clandestino, e poi una serata con performance e presentazioni che, diciamo, introdurrà quello che è il lavoro del giorno dopo. Tutto questo, facoltà di architettura, Piazza Ghiberti 27. E la serata finisce, l'aperitivo sarà preparato dalle mani di Genuino Clandestino, compagni e compagne. Quindi mani, verdure e tutto il resto, quindi buonissimo, non mancate. Arriviamo poi a sabato, che invece si sposta all'evento, al CSA Next Emerson, in via di Bellagio numero 15. Sabato sì, è la giornata centrale in cui ci saranno, diciamo, due filoni principali. Uno è quello dei tavoli, quindi l'incontro fra le varie realtà, sia del territorio che insomma, da fuori, dalle altre città, che saranno due tavoli che punteranno, diciamo, mirano a approfondire le due focus principali, che sono: uno, l'impatto sul quotidiano della turistificazione e nelle varie declinazioni appunto che ha nei vari territori, e l'altro invece quello che è proprio a scala territoriale, quindi le grandi opere, come si modifica l'infrastruttura del turismo. In questi due tavoli si parlerà sia di quello che è l'impatto e sia di quelle che sono le pratiche di resistenza e di una, insomma, visione alternativa che sono state messe mettersi in campo per affrontare appunto questo vero fenomeno. Potenzialmente parteciperanno i nodi, tutti i nodi italiani, forse anche qualcuno di europeo, quindi ognuno di questi nodi poi porterà le proprie pratiche utilizzate sui territori. Insomma, anche speriamo, invitiamo tutte le realtà del territorio a partecipare, a portare insomma il loro contributo. Esatto, i tavoli iniziano alle ore 10, così come anche i laboratori che affiancano. Che è l'altra linea, appunto, i laboratori invece sono, diciamo, con un profilo più artistico. Ci sarà Ex Voto Felicita a seguire, a organizzare anche questa parte. Insomma, sarà una roba molto sfaccettata che va a preparare quello che è la giornata di domenica. Poi esatto, finiamo sabato, naturalmente ci sarà un pranzo anche questo a cura di Genuino Clandestino, e infine anche l'Assemblea Nazionale di Set. La plenaria. Per concludere questa fase di lavoro, e poi invece si passa alla domenica. Si passa alla pratica alla domenica. Nel pieno centro, il ritrovo è alla polveriera, alla mattina, per preparare appunto quella che sarà l'azione della giornata di domenica, che è quella del carnevale antituristico, non turistico, autogestito, ha tantissimi nomi. Però questa idea di portare in questa domenica di carnevale le voci della Firenze, diciamo, della Firenze reale, della Firenze di chi, diciamo, delle pratiche che abitano questa città, portarle nelle strade appunto del centro e cercare di smascherare appunto quello che sono i nuovi padroni. Ecco, qual è il senso del carnevale in questo caso? Il carnevale è stato colto come occasione proprio perché rappresenta una giornata, no? Quando si dice carnevale ogni scherzo vale, proprio perché il carnevale come festa è un momento in cui si ristabiliscono le regole, no, abituali. Si sovvertono le regole abituali. E infatti nel carnevale in particolar modo abbiamo sempre, no, delle maschere, ogni città ha sempre una maschera che più o meno si occupa di, in questo giorno, la possibilità di portare quella che è la voce del popolo, no, che normalmente insomma deve, deve sorbirsi quello che viene per lui deciso. Invece a carnevale, grazie anche al gioco delle maschere, questo può essere detto. Quindi tutte queste maschere che noi conosciamo bene, che anzi adesso sono proprio parte di quel processo di turistificazione, che sono dei brand, quasi, esatto, si può dire. Brandizza, no? Il Pulcinella, Arlecchino, ma anche Arlecchino, il vestito di Arlecchino è fatto di pezzi di stoffa, no? Perché anche Arlecchino era uno che non poteva avere una maschera, e quindi appunto si è arrangiato in qualche modo. Esatto, è l'occasione in cui si può dire e fare quello che si vuole, e quindi la cogliamo e invitiamo tutti a coglierla, a inventarsi travestimenti, idee, qualsiasi cosa che possa essere adatto a questa giornata, e a portarlo, esatto, per le strade della città. Esatto, è un'occasione fra l'altro che è stata un po' colta da tutti gli spazi sociali fiorentini, che vivono un momento di difficoltà dovuto alla politica generale, ma anche e soprattutto dovuto ai processi che coinvolgono la città, in primis la turistificazione, che tocca veramente tutte le aree urbane ed extraurbane. Si può dire che la campagna, la prima campagna, si arriva fino a Mondeggi, fa parte della città a tutti gli effetti, e ci sono tante sfaccettature che arrivano ovunque. Quindi ricordiamo il carnevale domenica 3 in polveriera dalla mattina, con la funta poi alle 14:30. Il venerdì e il sabato invece il congresso SET presso Architettura e Next Emerson. Forse io questo credo che potremmo andare avanti con un pezzaccio, e poi torniamo con la nardellata che quest'oggi cambia volto. Eh sì, cambia volto. Thank you. life's little downs, they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want the scream and shout. Carry on, carry on. Don't cry, baby, look at where you've been. Everybody knows you just need a friend. Please, please, please, go down on your knees. Carry on, carry on. Your head is full of doubt, you can't figure it out. Carry on. Between the time it takes, make all those mistakes. Carry on, carry on. It don't matter what you say or do, it just seems to work out if you want it to. Cut out all the slack, take it off your back. Carry on. La sicurezza della città, dei cittadini. Ma chi è? Tema nuovo, la sicurezza. Nuovo, sì. Nuovo, sì, ma non lo dice nessuno, fra l'altro. No, no, ma poi questo era un esponente di destra? No? Chi lo sa? lo conosciamo, intanto lo conosciamo, questo si può dire. Avete sentito la voce di Graziano Cioni, tornato... alla ribalta, all'onore delle cronache. Perché? Perché intanto perché è un personaggio incredibile. Vi ricorderete, la cosa più eclatante fu quella questione del Lavavetri, naturalmente. Era il 2008, una cosa del genere. Eravamo con Domenici. E i lavavetri erano il problema principale di Firenze, secondo lui, perché i ciechi ci inciampavano sopra, tendenzialmente. No, giusta argomentazione. Ma scherzi. E quindi si può dire che lì è iniziata la vera battaglia al degrado, no? È stato un po' il primo punto di una storia che conosciamo bene, che viviamo ancora oggi, con annessi e connessi. Graziano Cioni, lo avete sentito, il tema della sicurezza è sulla bocca di tutti, tanto che alla domanda che fai te, ma destra o sinistra, è bella domanda, perché esatto. Comunque questo qui è il cavallo di battaglia di tutti, chissà, ci sentiamo così insicuri. Comunque, Graziano Cioni è tornato su, avevamo sentito delle indiscrezioni, erano passate anche sui media, che... ha una lista nuova, si candida, insomma, ha una lista con la quale candida un potenziale sindaco alle prossime elezioni. Questa lista si chiama Punto e a Capo, che insomma, Punto e a Capo, e le prime indiscrezioni davano come candidato sindaco Magherini, il fratello del... Ne avevamo parlato proprio qui con Acad, erano venuti, insomma, perché la questione Magherini ha avuto, vi sono state delle novità di recente, e sì, ma il fratello Magherini ha naturalmente detto di no, quando si è reso conto per bene di che cosa gli si prospettava davanti, e allora il nostro caro Graziano ha dovuto ripiegare su un altro volto. E qual è questo volto? Questo volto è un volto forte. È un volto forte, sì, volto forte, si chiama Mustafa Vatt. Ok, che è un uomo di sinistra, insomma. Che è un uomo... Sicuramente, no? Senti, intanto è un farmacista. Vabbè. è questo. Facciamo così. Fatti suoi. E di sinistra, senti, forse le idee un po' confuse, nel senso che fino a poco fa gravitava intorno a Fratelli d'Italia. Come? Però dice che ha un po' bazzicato un po' dappertutto. È stato un po', è andato un po' a vedere di qua, di là, dov'è che tirava la meglio aria per lui. E poi ha scelto il compagno Cioni e si è buttato in punta a capo. Loro si presentano naturalmente come i vincitori, potrete sentire certo. le dichiarazioni di Cioni. Loro non è che andranno a ballottaggio, loro vinceranno subito. E... con quali parole chiave? Con quali parole chiave? Qualcheduna ve la facciamo sentire. Vero? Correre per vincere. Abbiamo il candidato più forte. Eccolo. L'avete sentito, no? Come no? È Mustafa. È Mustafa. Non solo, allora la parola chiave è la sicurezza naturalmente per i cittadini, ma anche per assicurare un'integrazione, rispetto delle regole naturalmente, per chiunque infrange la legge, insomma le punizioni sono le stesse. Vabbè, è un po' sempre il solito brodo tendenzialmente. È un po' il solito brodo, sì, di questo centro-sinistra, centro-destra, centro-tutto, più tendente a destra, in cui sì. la sicurezza la fa da padrona come argomentazione politica. Sì, per essere sì, eletti sì, sì, sì, e sì. non compare mai il lavoro, i giovani, assolutamente le ma case, è abbastanza insomma. Curioso il fatto che Cioni vada a scegliere sì un candidato con un nome di fatto straniero, ecco, certo. E, però poi quando si va a vedere la sostanza o almeno quello che propongono, quello, si rimane comunque sempre sugli standard direi piuttosto bassi della politica attuale dei partiti. Quindi non so, l'indecisione aumenta sempre di più perché qui boh, che si deve fare? Da una parte c'è Nardellone che acclamato, acclamatissimo, veramente a cavallo della tranvia, fa rodei su rodei. A proposito di questo parleremo approfonditamente settimana prossima. Sì, sì, sì, perché non, questa, nei giorni scorsi non abbiamo potuto fare a meno di notare come anche lui sul tema della sicurezza, il suo grande cavallo di battaglia, e si è vantato dei numerosi sgomberi, citandone proprio Nardella. 47 sgomberi, dicendo con testuali parole: noi davvero passiamo Nardella. All'azione, mica come la Lega che chiacchiera e basta, noi Nardella. Facciamo gli sgomberi, ne abbiamo già fatti 47, Nardella. Il modello Firenze funziona, siamo i più fighi, siamo i più bomber. Quindi parleremo di questi 47 Nardella. Sgomberi, parleremo del piano casa, Nardella. Parleremo in generale anche poi di costi, no? Sì, sì, sì, sì, è uscito il bilancio di fine mandato proprio pochi giorni fa, tre o quattro giorni fa, e dettagliato, Nardella. Più o meno dettagliato, diciamo così. E comunque sì, grande attenzione Nardella. Viene data alla lotta al degrado, Nardella. Con dove nel degrado c'è anche compreso Nardella. Appunto tutta la questione delle occupazioni, Nardella. Degli sgomberi e via discorrendo. Fra l'altro, riguardo allo sgombero del Pergolino che è avvenuto Nardella. Settimana scorsa, ecco, era mercoledì o giovedì, dove sono state sgomberate diverse decine di persone, con anche diversi minori, sono stati tendenzialmente trasferiti a Villa Pepi. Villa Pepi è situata a Careggi, in cima a Viale Ferraccini, dietro al Maier, e è stato è uno dei centri di accoglienza delle situazioni di disagio sociale, quindi tutte le persone, quasi tutte le persone che sono venute via dal Pergolino sono finite lì. Con, ho letto oggi un comunicato di Medu, che è un ONG, Medici per i Diritti Umani, denuncia una inadeguatezza completa della struttura per l'ospitalità delle persone insomma, che arrivano dagli sfratti, ma in particolare di un minore, di un bambino che è gravemente malato, necessita di cure quotidiane che non possono essere date da un ospedale, ma bensì a casa, quindi tutte delle cose particolari sulla cucina, cose che lì dentro non sono assolutamente assicurate. Nardella. Con questo, caro Nardella. Nardella. Questa è la sua lotta graffiti, sì, grande attenzione. Ma è l'audio che avevi preparato prima? Ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo, ma è la chiusura del Cioni. Ah, ok. Questa qua è la chiusura del Cioni, Cioni contro tutti. E niente, io direi che la Nardellata di oggi è finita. E sì, magari... assolutamente. Dai, sentiamocela questa uscita del Cioni. Nardella. Non voglio dire di Nardella, io vorrei chiedere a Renzi perché Nardella? Perché Nardella? Perché Nardella? Guarda, ce la chiediamo anche noi sempre. Sì, e che noi ci chiediamo anche un po', ma perché Renzi? Sì, perché no? Sono molteplici, direi. Ma perché Cioni? Ma perché Vatt? Ma perché? Vabbè, loro si divertono così. Noi non tanto. Assolutamente. Regia, andiamo con un pezzaccio e poi ci ritroviamo fra poco? Oh yeah. Parliamo di cinema fra poco. Dovremmo, sì. Eh sì. And I woke up this morning with the cold water, with the cold water, with the cold water. Woke up this morning with the cold water, with the cold water, with the cold. Where the police at the station and they don't look friendly, where they don't look friendly, where they don't look friendly. Police at the station and they don't look friendly, where they don't look friendly, where they don't. Blind or crippled, shuffled door, I'm reading the Bible about 40 wild bulls. Oh, centro sociale a farvi che state venendo eletto. Ops, sono scappato. Va bene così, va bene così. Allora, eccoci qua di nuovo, fuoco alle polveri, sì, fuoco alle polveri, sì, siamo proprio noi. E siamo qui finalmente per presentarvi una nuova rubrica dal titolo, avevamo detto... Cinema in polvere. Cinema in polvere, o anche cinema in forfora, se l'ha detto. Che ancora, ancora meglio. Ancora è andato in onda due settimane fa, ma poi in realtà in onda non è andato perché abbiamo avuto dei problemi tecnici enormi. Ci scusiamo vivamente, ma oggi replichiamo. Allora, do il benvenuto a una voce conosciutissima. No, fai più. Osannano. Sì. Quando sei speaker di punta. Esatto. Di cosa parliamo in questa rubrica? Allora, ciao a tutti, questa è una rubrica appunto per chi vuole essere informato sulle programmazioni cinematografiche della settimana a Firenze, ma chiaramente non quelle più... diciamo mainstream, chiamiamole così, quelle un po' più particolari, cioè quelle che magari vengono le programmazioni dei cinema che fanno appunto una programmazione, un calendario un po' diverso rispetto a quello magari dei cinema tout court. Mi piace tout court. Oh. Anche perché quello sul giornale, insomma. Sì, quelli che trovate magari sul giornale, ma trovate solo quel giorno lì, mentre magari hanno i giorni sono diversi, ecco, magari rispetto ai cinema che invece più o meno ripetono la programmazione tutta la settimana, questi posti fanno programmazione un po' alternata, un po' così. E quindi a volte uno se le perde perché non le trova, o le trova poco su internet. O sparse. Sì, sparse. Magari bisogna andare sul sito qui tutte insieme e anche un po' recensite. Oggi si va un po' veloce, però magari a volte poi si può fare delle recensioni un po' più lunghe. Quindi partiamo velocissimissimo perché c'è un po' di cose da dire. Bene. Da dove partiamo? Partirei dal Cinema Teatro della Compagnia, che come si era già detto, però voi non l'avete sentito, è uno dei cinema che in questo momento sta facendo una programmazione più interessante, soprattutto più varia, perché propone tantissima offerta, veramente tantissima, addirittura fa anche le matinee, ho scoperto, non lo sapevo, quindi proprio è tutto il giorno. E ogni giorno fa, come dire, una... cose diverse, ecco, non ripete quasi mai, è suddiviso a diciamo a eventi spesso e segue anche molto i festival, quindi manda documentari, insomma tutto quello che non si trova molto in generale qui lo potete trovare. Allora, per questa settimana, partendo da oggi, si conclude, mi pare, forse è l'ultimo, non sono sicura, però l'appuntamento con il cinema dedicato a Tarantino. In particolare questa sera ci sono due appuntamenti al Cinema Teatro della Compagnia, che vi ricordo si trova in via Cavour, e ha alle 19.30 un incontro sull'autore appunto, e poi alle 21 Pulp Fiction. Quindi chi così non l'avesse mai visto al cinema, chi lo vuole rivedere, ecco, ha occasione. Sì, e questo era per questa rassegna su Tarantino che stanno facendo da un po' di tempo. Sempre al Teatro della Compagnia oggi, anzi tra poco, alle 19 c'è un bellissimo documentario sulla punk fashion stilista di riferimento di tutta la cultura veramente anni 70 londinese e poi del mondo, Vivienne Westwood. Ed è un documentario che va in onda alle 19, quindi con filmati d'archivio, anche quindi molto musicale, sì, sulla moda, però chiaramente questa autrice è legata alla nascita di tutta l'estetica proprio punk, dei Sex Pistols, di tutti poi i gruppi che passavano dal suo negozio e poi dal suo atelier. E questo è alle ore 19, appunto, oggi, e si ripete in realtà, durante la settimana lo ripetono, e domani per esempio alle 15.30 e giovedì sera di nuovo alle 19, per chi fosse interessato. Ecco, per proseguire sempre il Cinema Teatro della Compagnia, mercoledì 27, il mercoledì fanno sempre una rassegna che si chiama Scusate il ritardo, in cui danno tutti i film in programmazione durante gli ultimi mesi e che magari qualcuno ha perso per strada. E questa settimana daranno Colette, che è un film del regista inglese, credo sia inglese, Westmoreland, con Keira Knightley protagonista, che recita nella parte di Colette, la famosissima scrittrice intellettuale francese, dalla storia, dalla vita veramente romanzesca. E io non l'ho visto, però solitamente questo regista è abbastanza... insomma, fa dei lavori abbastanza buoni, quindi ecco, sì, non so come Keira Knightley poi starà in questa parte, perché è una parte difficile, è un personaggio veramente storico, particolare. Colette è stata veramente una delle prime donne, insomma, a parlare di certi temi, a affrontare anche il tema insomma, il tema di genere, quindi insomma, ecco, è un po' un mito. E questo appunto mercoledì abbiamo detto, e ripetuto tutto il giorno alle ore 15, alle ore 17, alle ore 19 e alle ore 21, se vi interessa l'argomento. Il Cinema Teatro della Compagnia poi prosegue ovviamente la sua programmazione settimanale insomma, con degli eventi questa settimana legati alla danza, perché c'è stata Danza in Fiera, insomma un evento importante alla Fortezza, e quindi ci sono a seguire giovedì, venerdì, sabato e domenica una serie di eventi legati, una serie di film, di documentari legati alla danza, di live probabilmente, insomma, che adesso non vi sto a recensire tutti perché non abbiamo tempo, però per chi fosse interessato ovviamente il sito che è www.cinemalacompagnia.it, e qui potete trovare, è fatto molto bene a differenza di altri siti di cinema, si trova, insomma, è molto intuitivo, molto facile da consultare. Ottimo. Sì, volevo fare soltanto una, ecco, così una cosa che mi sono scordata per chi fosse interessato. Sempre domani, martedì 26 alle ore 20, c'è il BANNF Mountain Festival, che è un festival dedicato al cinema su, diciamo, degli sport estremi, della natura, di tutti quei, insomma, un cinema per gli amanti dell'outdoor, degli spazi aperti, e pare appunto molto interessante. Sono proiezioni dalle ore 20 in poi, tutte su questo tema, migliori film di avventura e di sport outdoor sul grande schermo, montagna, alpinismo, insomma, e arrampicata, kayak, ecco, per gli amanti dello sport. Scusa, sono un film o reportage? Questi sono, credo che siano, non lo specifica nel programma, okay, perché sono, vabbè, tutti insieme, però credo che siano, sì, saranno sicuramente documentari e reportage. Ecco, bene, bene, bene. Sì, questo dalle ore appunto 20 di martedì. Perfetto. L'ingresso è sempre 5 euro, 5-6 euro il Teatro della Compagnia, più o meno, a meno che non ci siano eventi. Proseguendo così velocemente per i cinema che fanno una programmazione un po' alternativa, dicevamo, sempre nel centro di Firenze c'è l'Odeon, ovviamente in piazza Strozzi, conosciuto soprattutto per la sua programmazione dei film in lingua originale. Questa settimana abbiamo, diciamo un po' in alternanza, 3-4 film, di cui stasera Green Book, che è poi quello che ha vinto l'Oscar ieri, esatto, sera, miglior film, la storia, appunto, una storia vera di un viaggio, appunto, di un on the road tra un autista italo-americano negli anni 50, interpretato da Viggo Mortensen, e da che accompagna questo musicista di colore, però che è un musicista molto particolare, molto insomma un personaggio particolare, e del loro rapporto è stato molto premiato, appunto, e poi qui non apriamo, insomma, le polemiche sull'Oscar, no, però non, lo faremo in questa sede, però insomma è stato molto amato, e quindi è in programmazione questa settimana al Cinema Odeon in lingua originale. È fondamentale per chi lo vuole vedere questo film in lingua originale, perché c'è appunto tutta questa doppia, così, insomma, questa parlata italo-americana e lo slang anche un po' legato al mondo musicale, che in italiano immagino si perda completamente. Molto interessante invece un evento speciale sul pittore Tintoretto, è un documentario, lo fanno sia oggi che domani, sempre nel pomeriggio alle 4:15 all'Odeon, e questo è uno degli eventi speciali che l'Odeon fa, uno dei, di solito appunto sono documentari o balletti o opere, insomma, fuori dalla programmazione normale. E per chi fosse interessato, appunto, una panoramica su Tintoretto, un ribelle a Venezia, e nel 400° anniversario della nascita del famosissimo pittore. Assolutamente. E deve essere molto bello, e lo ripetono appunto oggi lunedì, martedì, mercoledì, sempre alle 4:15 al Cinema Odeon. In programmazione al Cinema Odeon in questi giorni di nuovo Roma di Cuarón, che ha vinto 3 Oscar ieri notte alla fotografia, mi sembra, alla regia, a film straniero, insomma, ha vinto molti Oscar, perché effettivamente Cuarón si sbaglia quasi mai, e per chi non l'avesse visto è un'occasione appunto per rivederlo, la storia di una, così, di una famiglia nella città del Messico dagli anni 60 in poi, in questo quartiere appunto che si chiama Roma, e così un interno un po' chiamiamolo un po' neorealista come visione, molto intimista appunto su questa famiglia. È molto bello, una fotografia in bianco e nero che appunto ha vinto l'Oscar. Giovedì 28, per di nuovo un film che ha vinto la migliore attrice, ha vinto l'Oscar, La Favorita, sempre in doppia programmazione alle 4:15 e alle 6:45 in lingua originale. E anche questo è un film appunto che sta raccogliendo grandi successi, la storia di tre donne nel regno della regina Anna, di Latimos, che era il regista di The Lobster, insomma, certo, un regista abbastanza noto. Di nuovo in programmazione anche Bohemian Rhapsody, sempre giovedì all'Odeon, il film sulla storia appunto di Freddie Mercury e dei Queen, anche questo fresco degli Oscar, perché il ragazzo che lo interpreta, Rami Malek, ha vinto l'Oscar come miglior attore ieri notte, quindi insomma chi lo volesse vedere interpretare Freddie Mercury vada all'Odeon, ed è il 28, giovedì alle 9:15. Chiaramente poi gli orari li potete trovare sempre sul sito del... Ma abbiamo detto una cosa l'ultima volta sull'Odeon, se non sbaglio. Sì, che bisogna sempre ricontrollare, ecco. Sì, fate attenzione, perché bisogna richiamarli, ricontrollare prima, perché a volte li cambiano un po'. Per chi fosse interessato a Roma e a Bohemian Rhapsody, di nuovo venerdì in programmazione, sempre all'Odeon questo venerdì. Che dire, un altro spazio che a Firenze propone sempre una programmazione abbastanza alternativa, interessante e a volte anche per alcune proiezioni in lingua originale è lo spazio 1 in Via del Sole, anche lo spazio 1 da tenere sempre un po' d'occhio, perché propone sempre, diciamo, ecco, un po' tipo l'Odio, non assomiglia un po' come programmazione, non è, ecco, non è varia, non è ricca come quella del cinema La Compagnia, però è abbastanza varia. Questa settimana allo Spazio 1 abbiamo di nuovo in programmazione Roma di Cuarón, e La Favorita, di nuovo appunto proprio perché probabilmente anche ieri sera, dato il successo agli Oscar di questi film, li stanno rimettendo in programmazione. E un altro film di cui avevamo parlato l'altra volta, però non avevamo poi, appunto non essendo andato in onda, niente, ve lo siete perso, che è questo Cold War. Allora, gli orari ve li do così un po' al volo, comunque ovviamente si trovano sul sito cinemaspazio1.it, e per chi volesse vedere Cold War, che abbiamo detto dal nome impronunciabile tutte le volte, un film di Pawel Ilowski, una bellissima storia d'amore ambientata post seconda guerra mondiale, insomma nella Polonia dal subito dopoguerra in poi. Molto bello, molto interessante, ed è questo qui, è in programmazione allo Spazio 1 oggi, vabbè era alle 15:30 niente, e domani alle ore 20. Ha ottenuto anche questo tre candidature agli Oscar, premiato a Cannes, candidato ai BAFTA, 5 Film Awards, insomma un successone anche questo. E lo consiglio per chi fosse interessato, ecco, appassionante appunto storia d'amore appunto nella Polonia del dopoguerra e poi insomma in generale nell'Europa post bellica. Di nuovo Roma, per chi fosse interessato a rivederlo lunedì 25, quindi fino a mercoledì 27 febbraio. Le proiezioni sono il 20, lunedì alle 19:10, il 21:30 martedì, mercoledì di nuovo nel pomeriggio alle 15:15, alle 21:35 di questo mercoledì la versione originale sottotitolata. Chiuderei con La Favorita, che appunto di cui la protagonista ha vinto l'Oscar miglior attrice, sempre al cinema Spazio 1, okay. Scusate, sono troppi, oggi alle 17, ma niente, ve lo siete perso, 21:30 però stasera martedì 26, scusate, domani sera, versione originale con i sottotitoli. Ah, ok. Questo era, è difficilissimo, ragazzi. Velocissimo. È veramente difficile. Ovviamente, anche insomma, vi rimando così per gli orari sempre ai siti dei cinema in questione. Per oggi, diciamo, questa era la mia selecta per oggi. Poi, insomma, parleremo anche di cinema in altri spazi. Ok. Soprattutto negli spazi liberati, che comunque fanno cinema a Firenze, anche se uno poi lo viene a sapere sempre un po' così, sempre per altre vie. Questo era appunto la programmazione un po' alternativa per questa settimana. E perché no, fateci sapere anche alla mail di Fuoco alle Polveri se Posta Wombat, Posta non Wombat, nostra. Non avete, ok, perfetto, sì. Posta Wombat, chioccia Posta in Siberia, Wombat, appunto. Fateci sapere se avete visto, se sì. Questo. Beh, ne ringraziamo assolutamente, e anche per me, io proprio personalmente, sennò poi mi perdo tutte queste. Sì, bisogna stare un po' al taccuino, lo so, sto un po' veloce, però insomma. Bene, quindi nuova rubrica che vi informa su ciò che riguarda il cinema e le rassegne cinematografiche alternative a Firenze. Questa è la prima puntata, aspettiamo le prossime. Cosa vogliamo fare, regista? Non lo so, il tempo stringe. Cosa abbiamo da... cosa ci manca? Allora, se vuoi possiamo andare con un bel pezzaccio, poi andiamo in conclusione. Vi segnaliamo un'intervista che presto metteremo come podcast nella sezione speciali. Poi io vorrei farvi un po' di pubblicità sul nuovo Urlo dei Balcani, veramente 2 secondi, e poi basta, concludiamo. E poi dopo, mi raccomando, c'è la rassegna eventi. Yep. Io vi saluto, allora alla prossima. Grazie ancora. Ciao ciao. Wombat. Ciao. Questo è un tuo compito, Larry? Eh? Questo è un tuo compito, Larry? È proprio un mio compito, Larry! Larry! Che film, che film! Allora, siamo in conclusione di puntata anche per questo lunedì. E niente, vi volevamo segnalare una questione. La settimana scorsa avevamo pubblicizzato, insomma, vi avevamo detto che ci sarebbe stata una bella iniziativa in quel di Polveriera. E c'è stata. E c'è stata, c'è stata il venerdì 22. Abbiamo registrato una ricca intervista che però oggi non facciamo in tempo a mandarvi integralmente. La inseriremo nella sezione speciali del sito di wombat.noblogs.org, da cui ci state sentendo, se ci state sentendo online, altrimenti 13.59 delle frequenze AM, le in onde medie, potete trovare lì questa intervista e non solo, ci sono tanti altri contenuti che non riusciamo ad esprimere attraverso le trasmissioni, ma che comunque accadono e noi cerchiamo di seguire in questa qui in particolar modo è questa la vertenza che è in atto a Vodafone da parte dei lavoratori. E allora il compagno ci ha raccontato appunto un po' tutta la vicenda, cosa sta succedendo, quali sono i risvolti, e quindi vi invitiamo ad ascoltarla a partire da domani, ci sarà già disponibile. Altra novità invece io vi volevo personalmente raccontare, appunto l'Uro dei Balcani non abbandona Fuoco alle Polveri, però trova anche un suo spazio in solitaria con una trasmissione a sé stante, appunto con l'omonimo titolo dell'Uro dei Balcani. Si emancipa non da solo ma insieme in punta di pedali, ci alterneremo quindi con Bricco un giovedì sì, un giovedì no, un giovedì lui, un giovedì in punta di pedali, un giovedì L'Uro dei Balcani. La prima puntata che è andata in onda giovedì scorso e che avrete potuto sentire, ma se ve la siete persi già il podcast è disponibile. Abbiamo parlato appunto, come avevamo promesso già dai microfoni di Fuoco alle Polveri, dell'Albania, con una interessante intervista a Alfred Bushi, che è un ricercatore dell'Università di Tirana, che è proprio lì, e che ci ha raccontato un po' tutto il movimento studentesco, gli avvenimenti, quali sono i pod, dove è nato questo movimento studentesco e come si posiziona, quali sono le richieste, insomma, veramente a tutto tondo, io direi quasi esaustiva. Ancora grazie a Alfred Bushi per questa intervista. Poi abbiamo parlato di un po' della Serbia, delle proteste in Serbia, quindi dell'opposizione a Vucic e quindi un po' di aggiornamenti su ciò che sta avvenendo, consigliando un po' di reportage, un po' di interviste fatte, insomma, per andare a approfondire, insomma, ho lasciato dei link utili che potrebbero essere interessanti, e infine la consueta musica dai Balcani, questa volta montenegrina, che ti consiglio, Rambo Amadeus, che è totalmente fuori di testa. Una musica assurda. Bene, vi rimando niente al podcast e a ogni due giovedì, insomma, ai due giovedì mensili. E a questo punto, Lapo, siamo a fine. Buona. Vi salutiamo. È andata, grazie a tutti. Viva Fuoco alle Polveri. Viva The Wombat. A lunedì prossimo. Wombat. Fuoco alle Polveri. Radio Bomba. This is Radio Bomba. Correre per vincere. Abbiamo il candidato più forte. L'avete sentito, no? Certo.